avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà. Sto mantenendo la mia promessa di passare con voi la mattina della vigilia di Natale, ma lo faccio con grande piacere. Non avrei trovato scusa migliore per non starmene a casa questa mattina. Già satanato dal fatto della donna che se ne va prima del tempo, quindi pulisce in fretta e furia. Già satanato dal fatto che bisogna andare al mercato a comprare i cappelletti, la gallina per il brodo, i gobbi da dover lessare e via dicendo. Già satanato dal fatto che ancora nessuno ha pensato a regali per i figli. Già satanato dal fatto che il Natale arriva subito, che immediatamente alle 4 di pomeriggio già il mondo si ferma, i negozi si chiudono, cala la nebbia. E bisogna cominciare a pensare a passare il Natale. Quindi ve ne sono grato questa mattina, anche perché questa mattina è passata in redazione la Grupi avvocatessa Giusi di Fiano Romano, paese di Sabrina Ferilli, ma portato 6 salsicce del maiale ammazzato con le sue manine, quindi avrò già un regalo a mettere sotto l'alberello. Questa mattina siamo soltanto io, Valerio Rocchetti, Emanuela Mazza e Lotito, che insieme cercheremo in qualche maniera di dare un senso a questo Natale. Vogliamo fare un Natale alternativo? Lasciamo perdere, non perdiamo tempo, non ci sarà mai un Natale alternativo. Abbiamo nel DNA il fatto che questo giorno debba essere comunque santificato, al di là delle credenze giuste e lecite di chi ha una visione trascendentale di questa giornata, dal fatto che oggi è la giornata da dedicare alla bontà, alla famiglia, agli amici, agli auguri. Già ho la segreteria del mio telefonino piena, la memoria del mio telefonino piena degli sms massificati che arrivano, un'infinità di auguri, un felice anno nuovo, una stupenda festa. Me ne è arrivato uno questa mattina, ho lasciato il telefono di là, addirittura con divertenti perifrasi, giochi di parole sul termine Natale e Capodanno. Quelli sono gli auguri massificati che si mandano a tutti gli utenti della rubrica del proprio telefonino, così si è messi il cuore in pace. Io non farò questo, non manderò un sms a nessuno, chiamerò soltanto, già ho fatto un elenco, 5-6 persone, non più. Grazie a Dio questo è stato un anno in cui mi sono buttato dietro le spalle un sacco di amicizie per motivi diretti e indiretti, quindi sono leggero, pronto, vergine, fresco. Poi vorrei questa mattina farvi dei regali. Lo farò nei limiti del possibile, nei limiti della regola, della tradizione di Melog. Sono qui davanti a me circondato da libri infami. Sta finendo l'anno, i libri infami sono aumentati, le case editrici me ne hanno mandati tanti, sperando che sotto Natale, nella carenza di ispirazione poetica, abbia fatto grandi trasmissioni dedicate ai libri. Dedico questa mattinata al regalo dei libri. Tra coloro che mi telefoneranno e mi apriranno il cuore poeticamente, con visioni di Natale che non siano quelle condizionate, quelle convenzionali, quelle legate alle stereotipi, ma nemmeno dei Natali cattivisti, dei Natali isolazionisti, dei Natali misantropi, dei Natali di coloro che odiano la felicità degli altri. Vorrei un Natale basato sulla reale soddisfazione, sulla reale felicità. 800 24 0024. Lo sai che loro ci attendono a trovare tutto pulito? Pare che devono arrivare i principi d'Orlonia. Oh, eccoci qua, il nonno sempre in gamba, eh? Sono 4 giorni che non vado di corpo. Questa è ma ringraziando il Signore ritte sto. Questo è Alessandro. In genere, subito dopo di noi, arrivava da Modena lo zio Alessandro, fratello della mamma, con la zia Gina e Monica, mia cugina. Stai bene? Sono contenta. Tra i tanti omaggi al maestro Monicelli, uno di quelli che meno volentieri tutte le prefiche, le lacrimanti, le amiche, le ricordanti hanno voluto portare in superficie è appunto Parenti Serpenti, che trovo sia uno dei film più felici invece. Felice perché è contemporaneo ad ogni anno nello scadere delle feste natalizie, nello scoccare delle feste natalizie. Parenti Serpenti è un fantastico film in cui nella provincia tipica italiana raffigurazione della quale è stata scelta la città di Sulmona, perfetta città dell'Abruzzo, città non toccata dal terremoto ma lambita dalla profezia che il prossimo terremoto sarà Sulmona, quindi vive nel terrore di essere colta la coda lunga del terremoto dell'Abruzzo, che quest'anno, guardate, è uscito dall'immaginario, non si parla più del terremoto dell'Abruzzo. L'anno scorso fu una fantastica occasione di piagnisteo natalizio, ha sostituito i barboni alla stazione Termini, ha sostituito le fiammiferaie congelate ai bordi dei marciapiedi. Quest'anno non se ne parla più, è steso un velo pietoso, la neve è caduta sull'Abruzzo e non si parla più di terremoto. A Sulmona accadde, come accade in ogni famiglia italiana, come questa mattina già vedo delle macchine piene di umarels col cappello, di signore grasse piene di capponi strangolati sotto braccio che vanno in giro da nipoti, cugine, cognate, pronte a dare il massimo di se stessi. Nella fantastica possibilità dello sfrittellamento natalizio riprendono la loro dignità donne che ormai erano accantonate ai margini di ogni immaginario, di ogni ricordo, di ogni gratitudine. Beh, in questa famiglia arrivano tutti i parenti da tutte le città d'Italia, terrificanti, figli cornuti, cognate mignotte, c'era di tutto, veramente di tutto, addirittura un figlio gay che lo confesserà la notte di Natale dicendo a me piace il cotechino, non esattamente nel termine metaforico in cui l'ho espresso io, che male c'è, è ora che lo sappiate anche voi. Beh, in questa felice rappresentazione familiare a un certo punto ci si rende conto che i nonni fanno una cosa che non avrebbero mai dovuto fare, promettono la casa in cui vivono al figlio che si occuperà di loro, e naturalmente, come in ogni buona famiglia, gli affetti cementati da vincoli di sangue ma anche da anni di frequentazione cominciano a incrinarsi quando c'è da spartirsi qualche cosina. Appena sole, mamma e zia Milena iniziavano a dir male della zia Gina. Hai sentito? Mo va a farlo yoga? Dice che si deve rilassare. Ma di che? Al posto di Alessandro, sai, ceffoni. E il cashmere, la pelliccia? Scusa, ma dove li prendi tutti questi soldi? Milena mia, lasciatelo dire, quanto sei ingenua. Ma tu dici, non ci posso credere. Ma secondo te lei sta sempre con quello oppure ha cambiato partner? Uno soltanto. Mary, buongiorno. Buongiorno, caro Nicoletti. Le sto facendo questo regalino mesto, ma sono pronto anche, se lei lo meriterà, a darle un libro infame che sarà adeguato alle sue aspettative. Ciò che avrà scritto nella sua letterina a Babbo Natale, a Gesù Bambino, lo avrà concretizzato dal libro infame. Se sarà brava, mi dia il suo proposito per Natale. Il mio proposito per Natale, dunque, il mio proposito per Natale è stato quello di eliminare dalla mia vita i rami secchi, per cui le persone che non mi andavano più bene, passare a Natale e avere delle intenzioni ancora migliori per le persone che mi sono sempre vicino durante tutto l'anno. E cosa rimane in questo palo del telegrafico che si erge come una sorta di monito a tutti i rami secchi che sono stati tagliati? In che senso? Nel senso, tagliati i rami secchi rimane soltanto il tronco. Sì. Però sono spuntati gli altri verdi. Ah, dei teneri virgulti, quindi è stato, sì, è stato positivo. Molto positivo, mi sento sollevata e mi sento molto serena. No, sollevata, se non la sollevo io non può sentirti sollevata. La sollevazione delle donne, se permette, è un'attività sulla quale ho copyright e brevetto. Quindi si sente più leggera, diciamo. Più leggera, sì. E quindi lei ha la faccia di tutti quelli che ha simulato per anni di amare, di avere amicizia e affetto, passerà soltanto nei virgulti che sta coltivando con tenerezza e con apprensione. Sì, sono le persone con cui ho deciso di stare, con cui ho deciso di vivere la mia vita. E persone, sarà un uomo con un nuovo amore che le sta accanto. Mio marito, con la mia famiglia, con una parte della famiglia, con i miei fratelli, e declinando gli inviti di altri parenti che invece mi hanno causato dei problemi, che continuano a invitarmi facendo finta di niente, e io ho declinato, non mi interessa più, non mi interessa se è Natale, niente così. Senta, siccome la sento lievemente mesta, Mary, io vorrei aggiungere una scintilla di luce sotto questo albero con il solo ed essenziale orpello di pochi virgulti. Complimenti! Hai vinto un libro infame! Sarà l'orgoglio della tua biblioteca! a Mary, perché poi tragga lei le conclusioni tra il titolo di questo libro e l'operazione che lei ha svolto nell'ambito dei suoi effetti familiari. Regalo il libro dell'insigne Raffaele Cazzola Hoffman, I nuovi pirati, la pirateria del terzo millennio in Africa, Asia e America Latina, edizione Murza. È felice Mary? Sì, grazie, sono molto contenta. Avrà questo libro infame, lo metterà simbolicamente sotto l'alberello, i parenti capiranno e stederanno lontani da casa sua. Mamma, questo papà è bello, no? Non dovevate. Minuti su a Santità Giovanni. Nonno, c'è anche per te. Mau. Auguri papà, tanti auguri, buon Natale. Possiamo andare anche a sciare. Guarda come si fanno grandi, guarda, guarda. Dio che bella. Sono anni che vado alla ricerca. Quante ipocrisie nel momento dell'apertura dei regali sotto l'albero. Ognuno regala, soprattutto nei casi di famiglie allargate, dei tanti parenti, le peggio schifezze che conserva gelosamente nel garage, nel magazzino, nei soppalchi, dentro i cassetti, negli armadi, nei luoghi in cui, quando arriva il regalino, che naturalmente si capisce che è un regalo infame, si cerca di non rovinare la carta, si rimpacchetta tale quale, dice l'anno prossimo ci sarà utile. E quindi ecco questo rifiorire di meravigliosi oggettini, le statuine di porcellana, gli accessori per la cucina, i grembiuli con l'agrifoglio, le caccoliere tanto utili in ogni famiglia, vengono riconfezionate e vengono ripresentate appunto per i parenti l'anno dopo. In questo passaggio di parenti e serpenti ci sono le cognate, fra di loro si confrontano facendo finta di avere momenti di fantastica gioia, di irrefrenabile entusiasmo per l'orribile regalo che gli viene rifilato, e già nella loro mente c'è l'idea di riappiazzarlo alla prima occasione possibile a qualche altro parente che assolutamente mantiene soltanto un legame d'affezione formale, non sostanziale. Dario D'Auriente, buongiorno. Buongiorno. Giornalista dell'Associazione Contribuenti Italiani. Tu hai fatto una ricerca sui regali riciclati. Sembra impossibile, ma quello dei regali riciclati è una sorta di indotto sotterraneo. Sai dirmi qualcosa su quanti se ne fanno? Qual è la tipologia merceologica del regalo riciclato più frequentata? Allora, il 37% degli italiani quest'anno regalerà un regalo riciclato, cioè vuol dire un italiano su tre. Questa è una tendenza che è un'evoluzione, perché lo stesso studio lo feci nel 2008 e si vinceva che eravamo al 26%, quindi c'è stato un aumento dell'11% dei regali riciclati. Ovviamente la crisi comporta anche una maggiore creatività da parte degli italiani, no? E quindi cambiano la confezione, quindi. Cambiano la confezione e quindi rimpacchettano, come dicevi tu, rimpacchettano il Pandoro dell'anno precedente oppure una scatola di cioccolatini. Addirittura anche regali di tipo gastronomico, questo è schifoso. Sì, soprattutto, quelli sono i primi regali che vengono riciclati. Nella classifica che ho stilato. Ma questo è criminale, scusami, un Pandoro di un anno prima è ammuffito. No, e infatti capita molto spesso di fare brutte figure con i regali riciclati, perché ci si ritrova appunto a regalare panettoni Pandoro con del 2009, del 2008, e quindi appunto si... Cosa fanno? Sbianchettano la data di scadenza? Sbianchettano la data di scadenza e lo regalano. Senti, ma non potrebbe essere una soluzione, se vogliamo essere la radio al servizio dei cittadini, magari surgelateli, se già sapete che il Pandoro ripieno di zabaglione vi fa vomitare, mettetelo nel freezer e quindi sarà pronto dopo un anno, fresco come nuovo? Potrebbe essere una soluzione, ovviamente. Comunque noi dell'associazione diciamo siamo tra virgolette favorevoli al regalo riciclato, perché in un periodo di crisi ovviamente vogliamo invogliare il consumatore a non spendere più di quanto è necessario, ovviamente nel rispetto delle norme, cioè se è possibile non regalare un Pandoro del 2009 è meglio, magari regalare una sciarpa che non è piaciuta, un paio di guanti o un CD o un libro che non sono stati apprezzati, ecco. Le mutande rosse di Capodanno si possono riciclare? Possono essere riciclate anche quelle, perché è un regalo tipico. Tanto si mette una volta e basta, non si vede. Una volta e basta, sì. Vabbè. Io sto dando consigli. Senti, un'altra cosa, ma sì. Non c'è un rischio nel mercato delle regalie che a un certo punto avvenga l'entropia? Cioè, se questa percentuale cresce, alla fine saranno sempre gli stessi regali che gireranno per secoli e secoli, nessuno comprerà più nulla. Beh, il rischio c'è, ovviamente tu ben sai, no, che ogni anno si regalano sempre panettoni, appunto, intimo rosso, ci sono quei regali che sono, cioè, sono validi sempre, tutto l'anno, a Natale. Certo, a me la bottiglia di novello che mi hanno regalato un po' è sospetta, devo dire, perché siamo a dicembre. Infatti anche vini spumanti rientrano nella classifica al nono posto e quindi insomma sono regali che sono standard, che vengono fatti, e quindi nel momento in cui ci si ritrova magari in famiglia con 10 bottiglie di spumante, 10 bottiglie di vino, una la si può anche riciclare e dare a... Io ricordo quelle tipiche scatole di cioccolatini che ci offrivano le nonne, le zie, che c'hanno quella bella patina biancastra, che il liquore dentro era disseccato, le cremine sapevano un po' di muffa, quello è il tipico regalo riciclato. Quello è uno dei tipici regali riciclati, insieme alle candele, ai soprammobili, bagnoschiuma, le collanine, i braccialetti, insomma tutto ciò che, come ti dicevo, non piace oppure non viene apprezzato, oppure spesso si regala anche un regalo riciclato per vendetta, cioè come si pensa di aver ricevuto magari l'anno precedente un riciclo e quindi lo si ricicla l'anno successivo. Diciamo è il regalo inutile, quello più facilmente riciclabile. Sì. Sì, è il regalo inutile, quello a cui non ci si tiene, infatti di solito appunto si regalano, cioè i ricicli sono impersonali, sono appunto oggetti che non sono legati alla nostra vita. L'angioletto con il libro in mano che canta, orribile, quelle cose lì, quelle sì, quelle vanno sempre. Quelle cose vanno sempre di moda. Oddio, però c'è uno stile anni 70 che vederlo riapparire in un regalo dà l'idea che ormai è il quarto giro che fa quell'angioletto, perché poi cambia anche... Regalo vinto. Sentiamo in questo momento Gianfranco. Gianfranco, lei ha già aggiungere qualcosa all'idea del regalo riciclato? Come no? Buongiorno a tutti. Buongiorno Gianfranco. Bentrovati. Beh, l'idea del regalo riciclato è quasi una tradizione ormai delle feste nostre, quindi fa parte di quei riti che si consumano ogni anno sotto l'albero di Natale. La cosa bella è che bisogna farsi venire l'idea per cosa farne e non aspettare il Natale prossimo. Senta, secondo lei ci sono delle maniere per identificare il regalo riciclato? E innanzitutto la confezione, si capisce, non è fresca. La confezione, lo scotch che non è lo scotch del Natale. Ecco, lo scotch trasparente di casa. Non è tipico, no, grattato con le unghie, quindi poi ritrovi che non è ben attaccato. Poi se l'angioletto, diciamo, è incellofanato con una scatolina, comincia a ingiallirsi il plexiglass. Bravo, adesso è giallettino, sì. Anche dall'etichetta del maglione che lo vedi che non è datata e quindi ti accorgi che quella non è una cosa che è stata comprata quest'anno. Certo, se regalano un maglioncino viola fra 6-7 anni si capisce che appartiene ai felici anni 2010. La sciarpa color cammello è degli anni 80 sicuramente, se vede ancora anche lì l'etichetta che è un po' sprindellata. E poi ci sono tutti quei regali che arrivano dalle aziende, ce n'è uno bellissimo che è la pubblicazione in 3 tomi in carta patinata e sono tutte le copertine degli elenchi telefonici degli ultimi anni. Beh, utilissimo, non potrei farne a meno. Sono 3 tomi bellissimi in cui tu sfogli e vedi solo copertine di elenchi telefonici che sono tutte uguali, sono gialle con la maniera, certo. Sono tutte sul fondo verde, la foto, e poi c'è scritto Palermo, Trapani, Roma, Milano, e quindi lì hai tutte queste copertine. E poi sono bellissimi i regali che arrivano dalle nostre collaboratrici che magari vanno a fare un viaggio in Romania e ti portano per esempio il posacenere direttamente dalla Transilvania con il castello di Dracula, quello è un altro bellissimo regalo che ti puoi trovare sotto l'albero. Oppure trovi le sigarette estere della rumene che sono anche no, il settore sveglie e orologi. Oggi penso che le sveglie non le usi più nessuno, uno mette sul telefonino direttamente la sveglia, tanto se lo tiene vicino al letto, quindi suona. Le sveglie quella. Particolari, certe sveglie le prime sveglie digitali con i numerelli rossi, ad esempio, o la sveglia che proietta sul soffitto, che tanto se uno non ha gli occhiali non legge, quindi almeno a me è stata inutile. Un regalo vintage. Sì, sì, è vintagissima quella cosa lì, è antichissima. Oppure la borsa d'acqua calda, quello è un altro regalo che si trova spesso. Ma adesso queste però riappaiono nuovamente come regalo, io ho visto in quelle rassegne idiote che fanno i giornali tutti gli anni, quest'anno va di moda a regalare, c'è anche la borsa d'acqua calda, non so perché la borsa d'acqua calda con la copertina, con i cuoricini o con l'arena natalizia, però poi l'arena natalizia diventa un problema perché non la puoi riciclare per i compleanni. È quello fatto, infatti bisognerebbe evitare i regali brandizzati con il Natale, ci vorrebbe qualcosa di vago, capito? Sì, assolutamente. E voi ve li ridate durante la tombola? E poi a questo punto, se succede che alla Befana si arriva alla tombola e lì comincia l'estrazione, si attende tutti i trepidanti, l'ambo, il terno, la quaterna, c'è un crescendo di statuine, con la ballerina egiziana in cristallo, piuttosto che la carrozza con i cavalli, che viene, quella è una tombola certa, oppure arriva il quarto volume del libro scritto in maniera indecifrabile. Ma non è che li buttate nel cassonetto? Ripacchettate. No, è vietato ripresentarli alla tombola successiva, quello è tombale. Quindi... Ecco, qual è però il secondo livello di smaltimento del regalo riciclato? Quando non si può... solitamente c'è proprio un armadio dedicato ad hoc, in cui a un certo punto, quando arriva proprio la saturazione, lì comincia il sorteggio. Un consiglio c'è: ci sono quelle tombole di beneficenza che fanno le parrocchie, le damine di San Vincenzo, le signore. Lì è il regno del regalo riciclato. Vede queste signore in pelliccia piene di anelli che fanno la tombolina e vendono schifezze che nessuno compra. I cachepot, il famoso cachepot anni 80, no? con le foglie di bambù, quello riempie le case di tutti noi italiani, quindi te lo trovi in tutti i colori. Poi ultimamente queste grandi case di mobili internazionali, non faccio nome per pubblicità, che le case e poi ti accorgi arrivato a casa che non lo sai montare o che non ti serve o che addirittura magari allora si va alla libreria Billy, si rimette insieme, no? Si regala. Io però devo segarla, mi dispiace, brutto dirlo a Natale, ma devo dare le informazioni della borsa perché anche oggi è importante saperle. Ci sentiamo tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer. Melog 2.0. Visto che oggi è una giornata così bella, vi voglio anche dire una cosa importante. No, abbiamo pensato che questi pochi giorni che ci restano ancora da vivere, li vogliamo passare più vicino a voi. Oh, questo mi basta vivere sempre da solo. Oh, sì, ma finalmente! Dico, io in 15 anni che sono sposata sarete venuti in casa nostra, che so io, un paio di volte al massimo. Sì. Ma se non aspettavamo altro, vero Gino? Sicuro? Che bello Natale! Hai sentito, Sare? E io pensavo che voi non ci volevate. Ma non è vero! È fantastico, poi... Non rivelo nulla, non è uno spoiler, ormai il film è entrato nelle memorie e nei classici, quindi tutti saprete che alla fine questa simpatica vecchietta che abbraccia i figli, che dice quanto mi volete bene, salterà in aria, perché i figli li faranno zompare in aria sabotandogli la bombola del gas pur di non averli più fra i piedi e per pigliarsi la casa naturalmente. I parenti serpenti probabilmente un luogo comune in tutti gli antinatalizi, ma io non sono un antinatalizio viscerale, a me piace respirare il clima del Natale, o la casa piena di lucine, o anch'io l'agrifoglio, o le Befane attaccate a fili di nylon motorizzate che vanno avanti e indietro per i corridoi, ho tutti i possibili orpelli natalizi e forse farò anche il presepe oggi, anche se ho talmente tanti pupazzetti del presepe che mi occupano mezza casa, però li ritiro fuori perché c'è stato un periodo in cui ne compravo uno o due nuovi all'anno, quindi ho due scatoloni, ho addirittura anche quello lì che rimane fulminato dalla cometa, ho la venditrice di vino, mi piace tirarli fuori, ma i miei figli giocano come se fossero soldatini, però cercheremo quest'anno di comporre anche il presepe. E intanto Luisa cosa fa per il suo Natale? Ah, buongiorno Nicoletti. Buongiorno. Niente, io ho risolto lo stress natalizio dei regali, delle cene, di tutto quanto, collegandomi al detto dei parenti serpenti, mi sono accorta adesso all'età di 56 anni che... Ah, siamo coetanei? È verissimo. Quindi è l'età in cui si capisce che in realtà la famiglia è soltanto una fattispecie transeunte, non bisogna portarsi dietro per tutta la famiglia, quella d'origine, dico. No, infatti, noi abbiamo. Per eliminare lo stress e i regali. Hai eliminato i parenti? Esatto, io ho eliminato i miei. Ma cosa ho usato? La bombola del gas, il veleno, la motosega? No, non è stato sufficiente. No, non ho dovuto usare quei mezzi, però. Abbiamo insomma in seguito a discussioni il solito discorso sempre, no? Per i soldi, l'eredità, esattamente, che poi alla fine Dio benedica l'eredità che ci tolgono i parenti di torno, esatto, l'eredità che ci toglie i parenti di torno, ma a volte anche non sempre l'eredità, a volte sono proprio il discorso del nonno, no, dove lo metto, dove non lo metto. E quindi insomma noi per risolvere il problema abbiamo, ripeto, io ho eliminato i miei, mio marito ha eliminato i suoi, e dopo, e questo è un felicissimo Natale tra me, mio marito e mio figlio. Poi pensi che bello, come cosa. Due orfanelli che si sono conosciuti in una sorta di terribile orfanatrofio, voi adesso siete leggeri, leggiadri e felici. Sì, felicissimi, perché quei pranzi erano, non a parte noiosi, erano anche tristi gli ultimi anni, perché io sapevo che erano dei parenti serpenti che ci sfruttavano e davanti ci facevano tutti i sorrisi, mentre invece alla fine sfruttavano economicamente. E poi volevo dirle un'altra cosa, i regali riciclati, sa cosa ho fatto io? Li ho venduti al mercatino. Una parte li ho regalati, quelli che non sono riusciti. Ma chi è che compra le schifezze ancora? Perché no, vuoi capire chi è che spende soldi in schifezze? Perché finché te le regalano. L'ha trovato? Sì, sì, schifezze. E quindi io, andando al mercatino dell'usato, ho trovato gente che a sua volta ha comprato schifezze e quindi io ho anche beneficiato economicamente, li ho venduti proprio. Lei è fortunata. Guardi, devo dire che aggiungerò al bottino delle sue schifezze da poter vendere al mercatino qualcosa che la farà felice. Complimenti, hai vinto un libro infame, colmerà il vuoto dei tuoi scaffali. Alla meravigliosa Luisa, così brava nel riciclare, nel rimettere nel mercato ciò che meriterebbe in realtà l'altoforno e il macero, regalo basta rodersi il fegato. Come grazie. Vincere i contrasti sul lavoro con la pentacomunicazione, edizione anteprima di Massimo Piovano. Lei con la pentacomunicazione vincerà ogni contrasto sul lavoro. Quindi so già che questo libro, che è intonso, lei lo rimpacchetterà, lo regalerà o lo andrà a vendere al mercatino. Brava, ecco. Luisa. Grazie. Qua secondo me è l'unica persona che può veramente occuparsi dei nostri cari, proprio Alfredo. Alfredo? Ma certo, ma chi meglio di lui? Ma state scherzando? Ma come? Non sei contento? Contento? Ma allora, dite sul serio? Ma dico, siete impazziti? Ma che c'entro io? Io non ho solo che si mette a cudire a due vecchi? E così secondo voi dovrei rinunciare alla mia vita, alla mia indipendenza, a 10 anni di training autogeno per queste 4 mura e un po' di soldi in più? Alfredo, il fatto è che tu sei l'unica persona senza responsabilità, l'unica che vive da sola. Ma io non vivo solo, sono 10 anni che coabito. Ma allora ci sono dei segreti fra di noi. Sono 10 anni che stai con una donna e non ci dici niente. In realtà non era proprio una donna, uno degli scheletri di famiglia vengono a galla. E Haber confessa che in realtà vive con un uomo e ha sempre avuto quel tipo di predilezione affettiva. E proprio perché nel serpaglio dei parenti o ne fuori di tutto, comunque anche lui sarà, con la sua illuminata visione della vita, complice del bombardamento e dell'esplosione poi dei genitori. Dario D'Oriente, ti ho tenuto in ascolto fino adesso, vediamo se hai qualcosa da aggiungere dal tuo osservatorio dei regali riciclati. È interessante però che tu ti sia posto questo problema di osservare, memorizzare e monitorizzare il flusso del riciclo dei regali. Beh sì, noi come associazione ovviamente siamo a favore del consumatore e del contribuente. Associazione Contribuenti Italiani, ricordo. Sì, Associazione Contribuenti Italiani, per cui siamo vicini anche al modo a favorire il risparmio delle persone, soprattutto in un momento di crisi. E quindi appunto quello che emerge è che gli italiani in questi ultimi 2 anni sono attenti al portafoglio e quindi la tendenza al riciclo continua ad aumentare. Anche il portafoglino è un bel regalo riciclato, eh? Anche il portafoglino è un bel regalo quello riciclato. Che regalano i nonni con dentro 5 euro, una volta erano 100 lire e via dicendo, ben rimpacchettato, è un bel regalino. È un bel regalino da fare, no, ma ce ne sono parecchi simpatici, ovviamente. Ovviamente quello sta alla creatività delle persone. Comunque il regalo riciclato di per sé non è un male se fatto con amore, nell'intenzione di non andare appunto ad essere basta non far del male, come le corna e l'adulterio, uno può farlo, è un bel regalo, basta che non si sappia l'origine, diciamo, di quell'improvvisa felicità che aleggia in famiglia. Appunto. Grazie Dario, è stato importantissimo. Qui secondo me c'è una sola persona che può occuparsi di loro, una e basta. E secondo me questa persona sei te. Ma come ci hai potuto pensare? Con l'esaurimento nervoso che mi arriva fino all'angima dei capelli. La corrente spastica e tu mi vieni a dire di prendermi cura di questi due poveretti. Ma come ci hai potuto pensare? L'anno scorso papà ci ha operato la vescica. Chi c'è stato a farle notare in ospedale? Io, sola. senza un... Non ve lo mando per sadismo, passo per passo, tutto il litigio tra parenti e serpenti, ma così vi abituate, una sorta di training, preparatevi a quello che sentirete questa sera, che sentirete domani all'ora di colazione, il giorno di Santo Stefano che non finisce mai, che ancora uno agli avanzi del polletto lesso, del tacchino, qualche castagna che ormai assomiglia a un sassolino, che ancora si sgranocchia, già satolli, già pronti, già con la voglia di infilarsi due dita in gola. Francesca, buongiorno. Francesca? Ah no, Francesco, scusi, Francesco. Francesca sono io. Non allora, è che per regalo le fornivo un paio di cesoie, è che avevo letto male. No, per l'amor di Dio. Dio, se vuole. Potrebbe servirmi. Va in ferramenta, se serve. Sì. Guarda, io volevo portare il contributo di uno dei Natali più esilaranti della mia giovane carriera di festaiolo, che è stato quando un regalo riciclato ci tornò indietro. Era un pacco di caffè da torrefazione, di quelli proprio chic, che mia madre regalò una zia. Quelli che lasciano la scia profumata anche quando uno si... Bravissimo, che si possono usare da mettere anche nell'armadio per profumare i vestiti. Antitarme. Questo, io sono di Pavia, però ho una famiglia di ascendenze meridionali, per cui c'è stata una ramificazione di cugini secondi, terzi, per cui noi gli auguri ce li facciamo più o meno fino all'Epifania. E quindi dopo 3-4 giorni dalla vigilia di Natale, dove questo pacchetto era finito, credo a zia Lina, tornò indietro attraverso un'altra zia, per cui ci fu un scoppio di risa generale, però era divertente perché passammo un paio di giorni a fare telefonate per ricostruire il passaggio di questo pacco di caffè, che era veramente... Ancora non esistono leggi antiriciclo sulla tracciabilità dei pacchi di caffè o dei regali, però qualcuno dovrebbe proporla in Parlamento, adesso, onestamente. La tracciabilità dei regali, secondo me, è importante. Io metterei un microchip sul regalo collegato a Google Maps, così uno vede i percorsi, le derive di un regalo. Sarebbe molto interessante, secondo me. Guardi, il vero principe del riciclo è il mio amico Andrea, che in un compleanno si presentò dando un libro, questo è veramente infame perché credo fosse il libro di un comico di Zelig che lui aveva ricevuto per il suo compleanno già dedicato, e lo regalò con la prima pagina bianca con la dedica ad Andrea, buon compleanno, eccetera eccetera. Guardi, voglio darle una grande chance in questo momento. Lei può dare pan per focaccia al suo cugino che regalava i libri dei comici di Zelig. Gli darò una grande occasione. Complimenti, hai vinto un libro infame. Hai qualcosa da lanciare nelle liti domestiche. Allora, all'ascoltatore Francesco, perché possa vincere ed essere vittorioso e felice nella gara del riciclo del libro di comici di Zelig nella sua famiglia, regalo il libro infame di Giorgio Bocca, Annus Horribilis, serie bianca Feltrinelli. Attribuiamo impunemente il titolo libro infame, uno dei libri che è stato faziosamente presentato, nel senso da Fabio Fazio, con grande pompa magna qualche tempo fa. Comunque, ho un libretto serio. Ah, guardi, lo apro adesso. C'era già la dedica che l'avevo già offerto come libro infame alla signora Deborah, che in realtà non si è mai trovata, quindi c'è già la dedica a Deborah. Non lo merita, diciamo. Io adesso sovrapporrò la dedica a Deborah, che rispose... non so perché, non lo volle, quindi riciclo un libro che già avevo riciclato, quindi fantastico. Mi sembra giusto. Grazie Francesco, a presto. Sentiamo Giovanni. Pronto? Giovanni, andiamo avanti con il riciclo dei regali. Io intanto faccio la dedica sulla dedica. Prego, no, lei deve parlare. Allora, io solitamente con dei miei amici, con i quali condivido la passione del ballo, e faccio una festa il giorno della Befana, poco prima della Befana, in cui ricicliamo tutti i regali avuti, o piuttosto che cose come le bomboniere, delle cupole cresime, così li impacchettiamo. Ma togliete il bigliettino della bambina Rossellina a chiama zii, nonni, nipoti nel giorno più bello della sua vita, quello lo togliete? Sì, solitamente sono tolti, anzi a volte hanno degli incarti un po' improbabili, tipo carta di giornale, così. Beh, adesso questo fa sembra un insulto, lo fa apposta. Se ne va nei negozi dei cinesi, c'ha quintali di carta alla formaldeide, per pochi soldi la compra, così anche allunga accorcia le possibilità di sopravvivenza dei suoi amici. Quello magari può essere una soluzione. No, però facciamo questa cosa e ci scambiamo dei regali. Chi porta i regali, ogni intervenuto prende un regalo, poi quelli che rimangono li mettiamo all'asta. Facciamo un'asta fra di noi e... Così alzate anche due soldini oltre non sì, spendere. Abbiamo fatto una donazione all'Istituto Oncologico Romagnolo, che sembra una cosa buona, un bel proposito di Natale. Questa cosa è diventata un evento da qualche anno e tutti mi chiedono, quando è Giovanni che facciamo la... si chiama Ciocco Befana. Il Ciocco Befana. Beh, lanciamo un'idea. Complimenti. Nadia, sentiamo Nadia che aspetta da molto. Nadia, buongiorno. Buongiorno. Separata da 10 anni. Sì. Dunque. Beh, faccia la voce allegra, però non faccia. No, non tanto. E dunque. Perché ancora ci pensa. Un po' emozionata. Ci sta ancora pensando. Il regalo di quest'anno che ho ricevuto è dei miei figli che per la prima volta mi hanno chiesto di festeggiare con i parenti più stretti e sinceri il Natale nella nostra casa, laddove negli anni precedenti siamo sempre stati noi invitati nelle famiglie dei parenti vari. E questo mi è piaciuto perché forse per la prima volta questa casa è la loro casa e questa è la loro famiglia. Sì, bel regalo, nel senso che stanno a cucinare per 30 persone, pulire, lavare. No, siamo in 5-6 con i miei figli. Avete già cominciato? Io ho cominciato e sono anche un po' preoccupata perché è la prima volta che faccio il Natale e per cui sono andata alla ricerca dei gusti delle 5 persone che sono a tavola. Ma quindi 5 menù differenti? Sì. Cioè 5 cene differenti sta preparando? No, la cena è tradizionale, il pranzo è tradizionale perché io farò il Natale domani. Ma posso passare dai canditi particolari per il cognato alla mostarda per la nonna, un piccolo particolare che so che loro gustano particolarmente. Mi ha lasciato un po' interdetto il discorso che i cibi vengono riciclati, perché io da qualche anno regalo cibo alle persone che mi sono care. E lei vedrà, siccome le persone vogliono bene, ciò che lei ha regalato le tornerà. Abbia pazienza, domani quando verranno tutti i parenti finalmente a casa sua, che ha faticato come una schiava per giorni e giorni, quindi le hanno fatto questo regalo, potrà riapparire improvvisamente il cotechino di 2 anni fa, la coscetta di pollo che ha lasciato nel piatto una settimana dopo Natale in quell'anno particolare, arriverà quel bel panettone con quella confezione meravigliosa, un po' stile anni 70, però anche quello avrà un senso. A fra un istante, dopo le informazioni del traffico. Se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Per quanto riguarda la casa, vedremo il da farsi. Ma la roba che sta dentro sarebbe bello. Perché dentro ci sono delle cose giù, mica male. Il televisore è nuovo. E la lavatrice che gli abbiamo regalato noi l'anno scorso? Nuova. Poi c'ha quel programma per i capi delicati. Allora scusate, ma vorrei mettere le mani avanti, visto che siamo in argomento, perché in quella casa c'è una cosa che a me mi fa proprio morire. Il comò. Quello che sta nel corridoio? Sì. Quello che la tirano lì sette. In effetti, se noi riflettiamo, e questo è un bel pensiero natalizio, noi per il nostro prossimo siamo quei 4 oggetti schifosi che lasciamo dopo morti. Questo pezzo del film di Monicelli in realtà mi fa venire in mente una cosa, metto ieri un'amica mia, una famiglia in cui è morto un fratello e tutti gli altri fratelli, età media 75 anni, si stanno scannando per una Panda che non so di quanti anni fa. Un fratello dice: la compro io, vi do 1.000 euro pro forma. E no, ne vale almeno 1.500, ne vale almeno 2.000. E quindi la persona con il morto ancora caldo sottoterra si spartiscono, come si spartirono le vesti di un signore di cui si parlerà molto questa sera, si spartiscono i 4 oggettini schifosi che lasciamo dopo morti. Ma ho visto anch'io litigare per la consolina, per la seggiolina, per il tavolino, per il medagliere delle medaglie del nonno, per quei 4 libri schifosi ammuffiti con le pagine ancora incollate che nessuno aprirà mai, che poi ho rivisto vendere nel bancarelle soltanto dopo settimane. Noi siamo molto legati ai nostri oggetti, ma quando non ci saremo più, il legame dei nostri affetti rimarrà sui nostri oggetti e non sulla nostra memoria. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione, l'ascolto sempre. Il più bel regalo riciclato ricevuto è un portasporco leopardato con annessa scopina leopardata. Un cosa? Un portasporco? Cos'è il portasporco? Sì. Ha una visto pattumiera? Quelle palette con il manico per raccogliere lo sporco. Per le cacche dei cani? No, non ho capito. Sì, un porta sporco, una paletta raccogli sporco leopardata. Ma lo sporco dove si mette poi? La sporchiera cos'è? Nella pattumiera. Ma è chiusa, sigillata o aperta? No, il regalo è non ha mai visto quelle cose da casa. La normale pattumiera, no, l'aspirapolvere, poi ho capito, la pattumiera, quella col manico che si mette per terra e si scopetta dentro. Sì. leopardata, ecco. Con regolare scopina leopardata. Beh, una fantastica, dove si compra? Me lo dica, ma vado a comprare su. Non lo so, guardi. Con il mio trono zebrato sta benissimo. No, color pantera, pantera maculato, perfetto, la cosa perfetta. E chi l'ha regalato questo oggetto fantastico? Un cognato. E lei cosa ne ha fatto? L'ha riciclato? No, lo tengo qui perché così. Ma lo mette in una vetrina nel salotto, è un valore inestimabile questo oggetto. Guardi, ma valeva, ma è una cosa incredibile, cioè la fantasia. Guardi, però devo dire, è talmente orribile secondo una valutazione estetica corrente che ha un valore, secondo me. Ci vuole un grande coraggio, un grande senso intrepido dell'osare nello sfidare le mode e i criteri, i canoni stilistici. Quindi la tenga con affetto la pattumiera leopardata, che gliel'ha data, ha un senso, secondo me, nella sua vita. Ma anche lo scopino leopardato, perché lei dimentica lo scopino leopardato. Beh, giustamente, se no è un twin set, deve essere entrambe le cose, se no non ha senso. Francesco. Buongiorno. Buongiorno. Ascolti, volevo far dire una cosa, ma mi collego a quello che ha detto lei sulla divisione della panda vecchia e stravecchia. Mio padre è originario della Basilicata, è morto 3 mesi fa, aveva l'Alzheimer. Erano una famiglia ricca, non volevano che si sposasse mia mamma. Lui ha lasciato tutto, terreni, case a tutti i fratelli, non ha mai voluto niente, è stato sempre un signore e non so se Dio, se che cos'è, ma economicamente noi stiamo meglio di tutti quanti, quindi questo è ricollegandosi al fatto, a quello che ha detto lei, ma il mio intervento è no, scusi, qual è il nesso? Nel senso, le cose del vostro, l'avete prese tutte voi? C'è il nesso, è questo, che la società è permeata di, come dice lei, di ipocrisia e fondamentalmente di egoismo. Vabbè, la natura umana non è perfetta. Sì, però voglio dire, nella vita tutto arriva, capito? Nel senso che se fai del bene, raccogli del bene. Si sono impossessati di case, di terreni, non lo so per quale motivo, ma le ripeto, economicamente noi stiamo meglio di... Ma cosa hanno fatto? L'hanno spesi al gioco, in donne di malaffare? Si vede che, non lo so, hanno avuto dei problemi economici, io non lo so perché poi abbiamo perso i contatti, però... Poi lei è più ricco anche se non ha avuto nessun tipo di eredità. Esatto, mio padre ha avuto un tenore di vita, uno stile di vita, lavorando giorno e notte, io sono un medico, ha fatto studiare mia sorella, abbiamo una vita normale, tranquilla e serena che loro non hanno avuto. Ah, siete ricchi di qualità della vita, ecco, non di beni immobili. Siamo benestanti, economicamente non ci manca niente, ma non è quello, cioè per me tutto quello che noi abbiamo è un mezzo e non è il fine, ha capito? Cioè il benessere deve essere un modo per stare bene noi, ma far star bene anche gli altri. Diciamo, il benessere deve far star bene, sennò che benessere è? Sì, questo, ma deve far star bene anche gli altri, perché sennò poi... Ma se stiamo bene noi, stanno bene anche gli altri, diciamo la verità. No, io non penso così, infatti quello che succede poi in questa società... Io penso quando sto bene e sono felice non sono un peso per nessuno, e quindi aleggia felicità attorno a me, quindi passo come la fatina di Cenerentola con la sua polverina magica e sono tutti contenti. Se io mi porto addosso la sfiga dei miei pensieri, la gente mi allontana come appunto fosse il bisogno di un cane sul bordo del marciapiede. Comunque sì, però nel momento in cui poi lei ha bisogno degli altri, perché non si può essere sempre al massimo, essere sempre assolutamente felici, belli, ricchi. Io ho bisogno degli altri ogni istante nella mia vita, che discorsi, sennò starei in cima a una colonna a osservare l'assoluto, è chiaro. Uno deve ricordarsi che alla fine, prima o poi, quello che ha dato gli ritorna sempre. Questo è vero, è una legge che conosciamo bene, implacabile, che molte volte sentiamo anche sulle nostre povere spalle. Valerio. Buongiorno, io chiamo da Perugia. Vorrei dire che secondo me la sua scelta di proporre parenti serpenti è estremamente azzeccata, perché io l'ho visto da poco tempo e caro, la città in cui vivi ha visto quasi 30 anni della mia vita, quindi conosco bene. Ho anche scritto una mail su Facebook. L'aspetto serpentino del parentame umbro, quindi lasci perdere che so di quello che sto parlando. Dire questo, che questa visione materialistica, no, fare satica del Natale, no, inteso come osservazione di riti, di regali da scambiarci in famiglia il giorno del Natale, mi ha un po' stufato. E se negli anni passati, da quando ho iniziato ad acquisire un po' coscienza, se in quegli anni diciamo cercavo di non cercavo soluzione alternativa a questa, quest'anno ho deciso di insomma creare per me un nuovo modo di vivere il Natale. E quindi che fa? E prendendo spunto da una persona che insomma stimo molto, ho deciso che alle persone a cui tengo di più, che è una cerchia ristretta, non tutti, scriverò una frase tratta da, non so, da qualche testo, da qualche libro, da qualche... Tagore va sempre bene per queste cose. Quindi diciamo che voglio contrapporre al materialismo una visione spirituale più, del Natale, più astratta, ma va bene, non però, per questo però non sia più sintetico nelle sue frasi, perché sennò invece di un regalo diventa una mattonata nelle parti deboli. Quindi bocca al lupo, buon Natale. Fabio, che ha inventato il tromborro? Dunque, no, io volevo raccontare questo di un mio amico che tra l'altro fa il mio stesso lavoro. E qual è il suo lavoro? Io sono neurologo, lui anche. Neurologo? Neurologo, sì. Sì. E lui ha inventato questa, lui è di Portici, io sono di Napoli, lui ha inventato questo tomborror che sarebbe la sintesi tra la tombola e gli orrori che girano per casa, che galleggiano per casa, residuati da regali o altre cose. Quindi è come la roulette russa del gusto. Perfettamente, come la russa venivano sorteggiati tra le vincite della tombola, uno non sapeva mai se vinceva in denaro o vinceva il tomborror. E il tomborror dei tomborror, che poi era la tombola sorteggiata, era un tempietto di plastica con l'interno in carion illuminato con quelle gocciole d'olio che girava qualche anno fa. Ah, molto belli, sì, andava molto di moda, li vendevano per strada, sui marciapiedi, oggi sono stati sostituiti dai cavallini e dai pupazzetti che camminano dentro ogni stazione metropolitana, in ogni marciapiede ce ne sono una iosa, suonano, cantano e fanno luci e rompono tanto le scatole se qualcuno ve li mette per casa. Ci sentiamo dopo le feste. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.